Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Battaglini, vice direttore della settima edizione di See You Sound International Music Film Festival online dal 19 al 25 febbraio 2021. Ben trovato. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Per chi non conoscesse il festival, ce lo descrivi? See You Sound è un festival di cinema a tematiche musicali che può, insomma, confondere, pensare che sia un festival che per esempio non so, tratta solo musical, invece in realtà è festival di cinema tematiche musicali, vuol dire un festival che ha come centro della propria narrazione la musica in tutte le sue forme, in tutte le sue modalità, quindi che può essere assolutamente un'opera di fiction, ma che ha al centro, insomma, questo tipo di narrazione, piuttosto che il classico magari documentario, piuttosto che un biopic, piuttosto che anche cortometraggi, che piuttosto anche videoclip, piuttosto che sonorizzazioni di film muti, eccetera, eccetera. Quindi tutto il caleidoscopico mondo che gira attorno al rapporto tra musica e immagini, insomma. L'edizione di quest'anno come si caratterizza? Innanzitutto dal fatto che è totalmente online, purtroppo per ovvi motivi l'anno scorso noi abbiamo un triste record che è quello forse di essere stato il primo evento che è stato stoppato a causa della pandemia, eravamo al nostro secondo giorno e mezzo di programmazione, avevamo aperto con una grande apertura col nuovo film, insomma quello che era il vecchio nuovo film di Julian Temple che era I Bidda di Salem Movie, con Julian Temple presente in sala con noi, tutto bellissimo, poi la domenica purtroppo è arrivato il paziente zero di Codogno e abbiamo dovuto chiudere tutto ed è stato un trauma che ancora oggi insomma ci portiamo un po' dietro. Però questa cosa ha dato subito una spinta comunicativa per far vedere che non eravamo morti, che si andava avanti e abbiamo avuto un fortissimo ritorno di pubblico e di attenzione, questo ci ha spinto insomma a prendere in mano un progetto che avevamo nella testa ma che non eravamo ancora molto sicuri di poter fare, questo ci ha dato insomma il coraggio di andare avanti a progettarlo e così quest'anno il festival non sarà come è successo per altre iniziative simili alle nostre che sono appoggiate a piattaforme esterne per poter fare la loro versione online. Per noi l'essere online significa che lanceremo la nostra piattaforma che si chiama PlaySys.tv come PlaySysSound.tv e che ci permetterà quindi anche dopo la fine del festival di poter continuare ad approfondire il nostro focus, la nostra ricerca sulla promozione comunque di questo tipo di cinema nel nostro paese e speriamo che possa dare anche una casa a tutti quei film che purtroppo al di là dell'occasione del nostro festival molto spesso nel nostro paese non trovano occasione di distribuzione, quindi quella innanzitutto è la caratteristica principale. In più abbiamo cercato anche un po' memoria dell'esperienza che sono state negli ultimi mesi di cercare di capire un po' com'era, cosa voleva dire fare un festival online che è un evento a sé, che ha un linguaggio a sé e soprattutto ha un altro registro con cui approcciarsi e per cercare almeno il meno settico possibile, anzi il più partecipativo possibile, abbiamo avuto l'idea di creare questo Sound Live Show che sarà una fascia giornaliera in diretta dalle ore 6 alle ore 20 dal Cineteatro Baretti di Torino in diretta, dove andando gratis sui nostri canali social noi presenteremo tutti i contenuti che vengono presentati, i film che vengono presentati in giornata durante il festival con gli ospiti in remoto, quelli locali che possono essere presenti e poi soprattutto alla fine di questa fascia ci sarà ogni giorno un concerto diverso dalle ore 8 alle ore 9 di sera. Quante sono le opere presentate? In tutto, videoclip, cortometraggi, lungometraggi di finzione, documentari, tutto sono in tutto 81. Le opere presentate sono 16 le anteprime italiane, 5 le anteprime assolute, divise nelle varie sezioni, tematiche che abbiamo, sia competitive che non competitive. È stato un gran lavoro, chiaramente insomma con le difficoltà che tutto quest'anno ha portato, ma insomma io sono molto orgoglioso del programma che riusciamo a portare. Approfittiamo anche di questa edizione, del fatto che sia online, anche per presentare dei contenuti, ripresentare, che in realtà sarebbe presentarli per la prima volta, perché purtroppo questi contenuti non eravamo riusciti a presentarli nell'edizione dell'anno scorso, abbiamo ancora qualche film che non eravamo ancora riusciti a far vedere, quindi dalla passata edizione e grazie a questa edizione online riusciamo comunque anche a ripresentarli ora e quindi finalmente a presentarli al nostro pubblico, quindi è un grande viaggio caleidoscopico. Un tema portante che lo caratterizza trasversalmente è il focus che quest'anno, fra tutte le sezioni a cui abbiamo dedicato molta attenzione, che è quello di Black Lives Matter quest'anno, insomma, quindi ci sono tante novità sicuramente. A tuo modo di vedere, come si sta evolvendo il rapporto tra immagine e musica a livello cinematografico? Tra i pregi, devo dire, che ha avuto questo festival è stato di poter, insomma, un po' predire con un tempismo abbastanza perfetto quella che stava diventando una direzione sempre più frequente all'interno, insomma, del panorama cinematografico mondiale. Le produzioni di questo genere sono esponenzialmente cresciute nel corso degli ultimi anni, sicuramente anche grazie al successo di alcuni film da botteghino, insomma, chiaramente celeberrimo Bohemian Rhapsody piuttosto che Rocketman, che sono film di fiction, ma come poteva essere anche quello di Lavoro di Rock in precedenza, però in realtà soprattutto la produzione anche di documentari, che rappresenta la grossa percentuale della nostra programmazione, sicuramente negli ultimi anni è molto aumentata e c'è una risposta del pubblico molto positiva, e questo ci fa anche molto ben sperare, soprattutto non solo per il festival, che già ha un suo pubblico affezionato e che si è creato ormai in 7 edizioni un suo zoccolo duro, almeno a livello locale. Quello che speriamo da quest'anno è che possa, grazie all'online, poter, insomma, varcare anche i confini della nostra città di Torino e poter andare anche sul resto del territorio nazionale. Però devo dire che è un pubblico, anche in vista della vita della nostra piattaforma Places.tv, che ci fa molto ben sperare questa attenzione sempre maggiore che viene data a questo genere e la risposta che il pubblico anche dà e che è molto interessato, devo dire. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Il nostro sito è www.cusound.org, mentre invece il sito dove trovate tutte le informazioni sul programma, trovate tutte le informazioni e i link per poter andare a comprare i biglietti, e invece il sito della piattaforma è www.places.tv, e poi per qualsiasi anche informazione di servizio e durante la giornata vi rimandiamo ai nostri 2 canali social, che sono Facebook e Instagram, dove ci trovate come CUSound Festival, e su Facebook naturalmente sia il canale di Places.tv che di CUSound. Settima edizione di See You Sound, International Music Film Festival, online dal 19 al 25 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento al vice direttore Alessandro Battaglini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie dell'opportunità e buonasera a tutti. Con il produttore Luca Cabriolu di Ombre Rosse per parlare del film Tensione Superficiale di Giovanni Aloy, in streaming su Io Resto in Sala da giovedì 18 febbraio 2021. Luca, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie per avermi invitato intanto. Ci presenti questo lavoro? Proprio ora leggevo questa cosa che fa molto piacere e divertente allo stesso tempo. Allora, la location dove è stato girato Tensione Superficiale è Curon. Fu individuata dalla regista quando fresco da Selezione a Cannes con un cortometraggio ci propose questa storia per poter poi sviluppare questo che è diventato il suo primo film. Ci incuriosì molto, io non sapevo granché di questo bellissimo lago dove spunta questo campanile, perché il lago di Resi, appunto, che è il lago in questione appunto della zona, fu allargato al tempo del fascismo inondando 2 paesini che erano limitrofi al lago, una storia che poi tra l'altro ultimamente è stata ripresa anche da un libro, era Io Resto Qui di Marco Balzano. Insomma, sviluppò tutta questa idea da questa location, poi c'è l'idea di questa prostituta che conosce questa ragazza che lavora là, questa ragazza madre la coinvolge in questa roba, che lavora poco dopo il paesino, la frontiera, praticamente Huron e quei paesini limitrofi al lago di Resa sono praticamente veramente a 2 passi, sono attaccati, una continuità territoriale con l'Austria. Insomma, sviluppammo questo progetto, andò bene e devo dire che siamo stati i primi a girare questa location, e poi vedevo appunto che proprio in questi giorni è stata addirittura messa in lizza come miglior location cinema d'Europa. Questa è una cosa che fa molto piacere. E hanno girato appunto la serie Curon di Netflix, hanno girato La Luna Nera, sempre su Netflix, che è un altro noir. Diciamo che è una zona che si presta molto al noir, infatti anche la nostra storia è un dramma, insomma una storia di confine. Però è interessante, sa, questo piccolo vanto di essere stati i primi a sfruttare questa location, che sino a qualche anno fa era assolutamente sconosciuta, invece adesso è veramente presente nell'immaginario di tutti. La vicenda in breve? Come dicevo, appunto, è la storia di Michela, che è questa ragazza madre che ha un bambino di 18 anni, ha avuto con un ragazzo della zona. Insomma, si capisce pian piano nella storia che lei lo conobbe durante una piccola vacanza fatta con i nonni quando era molto molto piccola, molto giovane. E la sua idea è quella poi stata di tornare un po', voler riconquistare quest'uomo che nel mentre si è fatto un'altra vita, infatti il film inizia che ha già un'altra compagna. Michela lavora appunto quando inizia il film in questo albergo, è una zona questa, non c'è un turismo di altissimo livello, insomma, non è Cortina, non è Courmayeur, non è queste zone dove i FIP vanno a sciare, ma insomma una zona, una stazione sciistica con un turismo medio. Quindi là lei decide di impiantarsi là, il figlio nasce là praticamente, da anni cerca di conquistare quest'uomo, lavora in un albergo un po' in nero da questi suoi amici, che tra l'altro il marito della sua amica, che è il proprietario, uno dei due proprietari, insomma, le fa delle avance continue, non la tratta nella maniera migliore. Sì, che un giorno appunto conosce Anna, che è questa ragazza molto prorompente, pian piano insomma si forma questa amicizia e Anna invita Michela ad andare a trovare in questo centro benessere, dice lei, dove lavora. Poi capiamo che in realtà lei lavora come prostituta. L'idea base del film è che in Austria, come in Svizzera, anche in Germania, la prostituzione è una cosa assolutamente legalizzata, le prostitute fatturano, pagano le tasse, eccetera, eccetera. Michela un po' inconscientemente decide di accettare, un po' come una sfida, e da là la storia si intreccia, si snoda e succedono tutte le cose. Anche gli uomini del villaggio, alcuni ci vanno, e tra cui capiterà che incontrerà il proprietario dell'albergo dove lavorava, e da là, insomma, nasce tutto un rapporto molto molto morboso, molto complicato, che poi porta alla risoluzione. Ovviamente non diciamo di più perché parte il film appunto in questo intreccio. Pian piano, nel mentre, si vede che il padre e il bambino costruiscono un rapporto che in realtà non c'era mai stato veramente, e neanche questa è una delle cose molto molto belle del film, questa paternità ricostruita. Insomma, il finale è abbastanza sorprendente. Lo vedrete, spero, appunto, è disponibile su Your Rest in Sala, ma non solo su Cili e su Rakuten da aprile e ovviamente anche su iTunes. Ho letto alcune dichiarazioni del regista, di Giovanni. Questa è una storia vera, appena lui ha saputo di questa storia ci ha visto subito del cinema. Vera, come sempre succede nel cinema, un pochettino romanzata. Giovanni, un po' dopo appunto questa esperienza di Cannes, che era stata improvvisa, un cortometraggio autoprodotto fatto con degli amici a Bologna e a Genova, era stato selezionato in concorso a Cannes. Calcolate che a Cannes vengono mediamente selezionati 10 cortometraggi in selezione ufficiale, che vengono selezionati di media su 5.000 che vengono mandati, quindi è una gran bella soddisfazione. Tra l'altro Giovanni rimane ad oggi, nonostante parliamo del 2014, l'ultimo italiano, proprio regista di nazionalità italiana, che è stato in quel concorso. Ancora non è stato replicato questa cosa, è successo tante volte in passato ovviamente, ma non succede da un po'. Quindi dopo questa grande soddisfazione Giovanni aveva preso lo zainetto e si era fatto un giro un po' per l'Italia, così, anche in cerca di storie. Quando è capitato in questo posto bellissimo, anche lui era assolutamente ignaro di questa splendida location, leggendo il giornale locale lesse di questa storia, appunto di questo fenomeno di ragazze italiane che anche in un momento di crisi insomma economica decidevano di fare questo lavoro oltre confine, spesso per scelta, ma spesso anche per questioni anche puramente meramente economiche. La cosa incredibile è che quella zona là, che sappiamo, il lago di Raesia, tutta la parte insomma di Bolzano, sino ad arrivare al Nord Tirolo, Sud Tirolo, eccetera, eccetera, sono una continuità geografica sicura, nel senso che si parla la stessa lingua, ci sono persone che nella stessa Curon vanno a fare la spesa in Svizzera, che è lo stesso a due passi, o alla benzina in Austria. Stiamo parlando di veramente come se fossero a quartiere di Roma, come distanza. Però c'è una discontinuità politica e morale molto molto forte, perché da noi è ancora assolutamente tabù quest'idea di poter, se ne parla da tanto, di poter appunto legalizzare un lavoro che è un po' come tante altre cose, l'unica maniera per sottrarlo alle maglie della criminalità organizzata sarebbe quello di legalizzarlo. E quindi decise di fare questa storia qua con dei personaggi che appunto ruotano tra queste due continuità territoriali, che però non lo sono politicamente, culturalmente anche. I luoghi e gli interpreti danno a questo film, e lo dico in senso positivo, un alone documentario. Sì, che è un po' la cifra stilistica del regista. Adesso calcoliamo che Giovanni ha già fatto un secondo film in Francia, dove purtroppo per motivi tecnici non siamo potuti entrare come coproduttori minoritari, perché era il momento più delicato al Ministero e alla RAI, era il primo governo venuto fuori dalle elezioni, quello della Lega e dei 5 Stelle, che aveva un pochettino messo in stand-by tutto ciò che era il discorso cinema. Quindi purtroppo a malincuore non siamo potuti entrare in questa seconda storia che è girata in Francia, dove invece là la tematica molto forte anche quella è quella delle pattuglie che girano per Parigi armate di mitra per prevenire gli attentati che ci sono stati negli anni precedenti. E anche là Giovanni, appunto, come cifra stilistica applica quella della prossimità, della continuità stilistica con il documentario, utilizzando finché può attori non particolarmente conosciuti, alcuni anche non professionisti, affiancandoli tra l'altro quasi sempre a qualche attore molto molto forte a livello artistico, qualitativo, professionale, come nel caso nostro abbiamo Cristiana Dell'Anna, che abbiamo visto la protagonista per Linea Principale di Gomorra, o come nel film francese con noi la Bettica, insomma abbiamo visto in tanti film che hanno anche vinto a Cannes. Sì, decisamente la cifra stilistica di Giovanni, come quella un po' del cinema contemporaneo, è quella di approcciarsi molto al documentario che, come vediamo, anche abbiamo visto adesso col Sampa, è uno stile cinematografico molto molto molto in voga. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sul film? C'è una pagina del film Tensione Superficiale, cioè nella pagina di Ombre Rosse Film, che è la casa di produzione nostra, che ha sede a Cagliari, ma opera in tutta Italia. Poi abbiamo chiaramente la pagina di Nomad, che è la distribuzione. E poi, insomma, pian piano le recensioni stanno venendo fuori su tutti i giornali principali e vedrete, spero, sentirete fare questo film e spero soprattutto lo vediate. Siamo molto lieti di aver comunque inaugurato la carriera di un regista molto promettente che è Giovanni Aloy. Tensione Superficiale di Giovanni Aloy in streaming su Io Resto in Sala da giovedì 18 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Luca Cabriolu di Ombre Rosse, che è il produttore. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, grazie ragazzi, è stato un onore, un piacere, spero si replichi presto. Ciao. Con Gabriella Romano, co-regista del documentario Baci rubati, amori omosessuali nell'Italia fascista, on demand da domenica 14 febbraio 2021. Gabriella, ben trovata. Salve a tutti. Come lo presenteresti questo lavoro? Questo documentario si propone di illustrare per quanto possibile la vita privata e gli amori, gli incontri e le storie sentimentali degli omosessuali e delle lesbiche durante il fascismo. Quindi è un documentario storico che parla di repressione, un argomento di cui si è un po' parlato negli ultimi anni, cioè di confino, di ammonizione, di repressione, di censura, di provvedimenti di polizia vari nei confronti degli omosessuali e delle lesbiche, però cerca anche di offrire un quadro diverso, diciamo, documentando la vita di coloro, dei tanti che sono riusciti a vivere la propria vita sentimentale come avevano deciso e che sono riusciti, nonostante la repressione, ad affermare il proprio privato, diciamo così. Come era nato il progetto? L'incontro tra me e Fabrizio Laurenti, abbastanza casuale, in cui così ci siamo parlati di varie idee, tra cui anche questa mia lunga ricerca su questo argomento. Io ho realizzato in passato alcuni cortometraggi raccogliendo le testimonianze orali di alcuni omosessuali e di alcune lesbiche durante il fascismo e sto svolgendo delle ricerche su come la psichiatria ha internato e effettivamente contribuito alla repressione dell'omosessualità durante il regime, e quindi da questo discorso è poi partita questa collaborazione. Abbiamo usato sia i materiali dell'Istituto Luce per documentare, diciamo, l'ufficialità della vita durante il fascismo, sia molti materiali inediti di archivi privati che sono un po' anche la ricchezza del progetto. Che quadro emerge? È un po' quello di cui si discute negli ultimi anni, cioè molto underground, molto sottotraccia. C'era un mondo di persone che si rifiutavano di seguire le direttive del regime, che si incontravano, c'erano molti luoghi di incontro, soprattutto per quanto riguarda il mondo maschile. C'erano balere, alberghi, ristoranti dove si ballava e dove ci si poteva incontrare, quindi c'era tutta una possibilità di incontri, anche i giardini, anche i bagni pubblici, cioè una mappa underground piuttosto nutrita per quanto riguarda l'universo gay maschile. Per quanto riguarda le lesbiche la situazione era molto più complicata, perché la repressione del fascismo avveniva a monte e quindi era la sessualità femminile che era repressa e le donne vivevano molto spesso confinate in casa. Quindi così ci sono alcune voci che ricordano appunto questa esperienza. Poi abbiamo anche tentato di sottolineare l'importanza della classe sociale per quanto riguardava appunto la libertà di movimento, cioè il fascismo chiudeva un occhio nei confronti di chi apparteneva a determinate classi sociali o comunque per chi esprimeva delle posizioni politiche non antagoniste al regime, e quindi per esempio tutto il circuito di lesbiche internazionali che gravitavano intorno a Firenze, a Capri, che consisteva di Romain Brooks, Radcliffe Hall e varie nobili donne sia italiane che estere, ecco, questo circuito aveva una libertà di movimento, una possibilità di espressione che alla stragrande maggioranza delle donne italiane era negata. C'è qualcosa che ti ha sorpreso? Intanto ci sono delle pagine molto romantiche di diari e di lettere inedite, perché abbiamo trovato questo epistolario tramite due collezionisti che hanno trovato una cassetta di lettere in un mercatino. E queste sono molto buffe, tra il romantico, lo spiritoso, lo sfacciato. Questo è stato un ritrovamento che mi ha ovviamente molto piacevolmente sorpreso, perché il documentario vuole essere anche un po' leggero di tono nel raccontare queste storie private, che non necessariamente erano sempre tragiche, anzi al contrario erano molto divertenti. Ci sono vari racconti abbastanza aneddotici e simpatici. Mi ha piacevolmente sorpreso il ritrovamento di materiali sia filmati che fotografici che documentano situazioni private, intime, e questi sono appunto una ricchezza del film. Anche a livello di curiosità è molto interessante che l'Istituto Luce abbia prodotto questo film, in quanto l'Istituto Luce è stato fondato da Mussolini, che ha documentato e rappresentato l'immagine del regime, e quindi è anche molto interessante che emerga questo desiderio di produrre dei film che raccontano invece la repressione del regime nei confronti delle minoranze. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sul vostro lavoro? La notizia è stata battuta dall'ANSA, e quindi sul sito dell'ANSA si trova tutta la presentazione del film e anche il trailer e la specifica delle tre piattaforme online dove si può vedere il film, che sono CG Entertainment, Chili e Google Play, altrimenti sul sito dell'Istituto Luce. Baci rubati, amori omosessuali nell'Italia fascista, on demand da domenica 14 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Gabriella Romano. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille e allora buona visione. Con il regista Valerio Ialongo della Rete degli Spettatori per presentare a tutto schermo 10 documentari sulle verità nascoste d'Italia online su MyMovies dal 19 febbraio al 18 aprile 2021. Valerio, ben trovato. Ciao, ciao Federico. Partiamo dalla Rete degli Spettatori per chi non la conoscesse. Adesso entriamo nel decimo anno di attività, è un'associazione culturale senza scopo di lucro che combatte per una certa idea di cinema libero, di cinema non massificato, non supportato dai grossi gruppi di potere, grossi gruppi economici, quindi un cinema indipendente, un cinema dei documentari, per esempio come in questo caso, che magari ha grande qualità ma non ha la fortuna di avere degli sponsor potenti, ecco. La scelta di quest'anno è chiaramente obbligata. Ci racconti un po' come vi siete organizzati? Ti devo confessare una cosa, noi non siamo partiti subito con l'idea di prendere solo documentari, però ti devo dire che in questi ultimi anni, questa è la nostra nona selezione, ci siamo resi conto che era sempre più difficile trovare un certo numero di bei film di finzione italiani. Mentre c'è una grande vitalità, una grande forza nei documentari italiani. Credo che tutti conosciamo le avventure dei film di Rosi e i premi che hanno vinto in giro per il mondo, ma dietro Rosi ci sono tantissimi altri validissimi autori che raccontano in maniera poetica, non soltanto, non bisogna pensare al giornalismo, ecco, è veramente cinema. Come mai questo tema, le verità nascoste d'Italia? Alcuni di questi film, per esempio, non sono ancora andati in onda nelle televisioni perché hanno un contenuto abbastanza dirompente. Faccio un esempio per tutti, Corleone di Mosco Levi Bucò, è un racconto degli anni peggiori, cioè quelli degli attentati a Falcone e Borsellino, che ha il coraggio di dare la parola quasi esclusivamente o comunque in maniera preponderante a tutti i pentiti di mafia. E quindi è veramente un ritratto sconvolgente di quegli anni. Come questo ci sono altri film che forse per la grande libertà, la grande leggerezza che ha il documentario, affrontano temi e personaggi con grande freschezza, con grande originalità. Ecco, mi viene in mente anche Fellini degli Spiriti, per esempio, no? Un ritratto completamente inedito di un Fellini incantato dallo spiritismo, da tutto ciò che è spirituale, religioso, e che forse fino adesso è stato un po' rimosso, no? Ci racconti un po' come saranno strutturate le fruizioni online? Ci saranno degli eventi speciali. I film sono 10 innanzitutto, questo è importante sottolinearlo, sono 10 e ci saranno delle visioni speciali che sono limitate per motivi anche di diritti che sono un po' più ristretti come tempi, ma prendendo l'abbonamento sono 10 film a 9,90 €, quindi diciamo un abbonamento assolutamente conveniente perché è meno di un euro a film, ma si avrà la disponibilità di vedere tutti questi film e poi 3 eventi speciali che sono Parola d'onore di Sofia Luvarà, La rivoluzione siamo noi di Ilaria Freccia e One More Jump, che hanno dei tempi più stretti di visione all'interno della rassegna, quindi si possono vedere nei giorni che sono indicati poi su My Movies e sulle nostre comunicazioni, insomma. Ecco, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Trovate le informazioni su www.retedegliespettatori.it oppure direttamente su My Movies, dove potrete anche vedere il bellissimo trailer della rassegna. Già il trailer credo che sia un assaggio della ricchezza e della potenza anche visiva di questi film. A tutto schermo, 10 documentari online su My Movies dal 19 febbraio al 18 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento a Valerio Ialongo della Rete degli Spettatori. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao Federico e a presto, speriamo che la prossima volta di parlare del mio prossimo film. Sì, certo. Ciao caro. Un abbraccio, ciao Federico. Con Julien Paolini, regista del film Amare Amaro. On demand da domenica 14 febbraio 2021, ben trovato. Ciao, grazie per avermi con voi. Come lo presenteresti questo film? Un adattamento in chiave siciliana dell'Antigone che conosciamo tutti, che focalizza sulla lotta per l'umanità. Com'è nato il progetto? Il progetto è nato proprio dalla volontà di raccontare come le leggi della famiglia nel giorno di oggi si possano scontrare contro quelle della società, come è bello combattere per le proprie idee, per l'umanità, anche quando il sistema ci dice di fare altrimenti, ci impone altre regole. Come hai pensato la messa in scena, questa trasposizione filmica? C'era nella Sicilia di oggi, ma comunque nella Sicilia in generale, tutto quello che davvero serviva per raccontare il mondo di oggi, che è un mondo molto scuro, ambiguo, nel quale prendere posizioni, fare le scelte giuste, fa proprio costruisce ecco, il futuro e la società come la troviamo oggi. La Sicilia incarnava simbolicamente, ma anche esteticamente, tutto questo. Cioè, per me è una specie di società multiculturale, multidentitaria, che mi fa molto riflettere sulla Francia, perché io sono franco-italiano e vivo tra i due paesi, vivo tra Parigi e Palermo. E dunque è stato proprio un modo per parlare di tante cose, raccontare questo film, questo adattamento nella chiave siciliana. Rispetto alla tragedia, su cosa hai voluto mettere l'accento? Io lo vedo proprio con questa chiave che dicevo prima della lotta dell'individuo contro il sistema. Cioè, Antigone sono le leggi della famiglia contro le leggi della società, per dirlo così. Era visto anche da questo punto di vista delle leggi della natura, le leggi morali, anche le leggi cristiane contro proprio quelle della città, della società, mentre qua questa cosa evolve, visto che Gaetano, il mio personaggio, combatte in nome della famiglia per onorare il fratello defunto, che era un piccolo criminale, qualcuno che tutti odiavano, ma anche alla fine anche lui in un senso odiava, ma in nome della sua famiglia, in nome dell'umanità, lui combatte questa decisione ingiusta della sindaca e va in fondo tragicamente a una lotta per l'umanità. La scelta del cast com'è stata? C'è questo attore francese che si chiama Cyrus Shahidi, che è diventato nei miei progetti cinematografici una specie di alter ego che rappresenta la diversità, lo straniero, rappresenta la multiidentità. Oltre a Cyrus, Celeste Casciaro, attrice pugliese incredibile che ha fatto i film di Edoardo Winspear, suo marito, ha rappresentato spesso una figura di donna del sud potente e intensa. Ecco, lei rapidamente è diventata la sindaca, il re Creonte del nostro adattamento, mentre Cyrus ha preso il posto di Antigone, con questa inversione così di sessi riguardo l'adattamento. E poi Tony Spenandeo ha accettato la parte di Marcello, e questa cosa ha cambiato molto per me, perché ha portato molto sicilianità nel film, che alla fine parla anche di questo. Mare amaro è proprio il sentimento del siciliano che ha questo amore profondo per la sua propria terra, ma che è condivisa da questo amore la necessità di doverla lasciare, e dunque ha portato anche del suo, cioè dei suoi contrasti, perché tutti i personaggi hanno questa ambiguità di essere condivisi tra queste scelte e di dover fare le scelte giuste. Prima di questa distribuzione on demand ha avuto una sua circuitazione il film? Il film è una produzione francese, ma coproduzione, cioè, con l'Italia, e dunque è uscito prima in Francia, anche se era in lingua italiana e con un cast piuttosto italiano, e dunque è uscito nelle sale prima del primo confinamento in Francia. È andato bene, c'è avuto un bel riscontro, e poi però l'uscita italiana si è preparata in parallelo, piano piano, e dunque il nostro distributore 102 Distribuzione ha trovato questa bellissima cosa dell'uscita su Amazon Prime Italia. E dunque diciamo che non è stato solo il contesto, era comunque la volontà di dare a un film d'autore un riscontro in un contesto dove la sala comunque è un po' meno frequentata, anche oltre il Covid lo era già, insomma. Per tutte le informazioni ci lasci dei riferimenti web? Sui social diamo un po' di news, e poi i nostri account, il mio, quello di Cyrus Shahidi, il mio, Giuliano Paolini, sono i punti un po' di riferimento. Amare amaro, on demand da domenica 14 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Giuliano Paolini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie per averci avuto con voi. Grazie, lupo. Con il regista Marco Amenta per presentare il suo documentario La ragazza spettinata. Marco, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi. Come ce lo presenti questo lavoro? E ancora una volta è la storia di una ragazza che resiste e che si oppone a qualcosa, come nel uno dei miei film La siciliana ribelle, dove c'era quella ragazzina siciliana che si è battuta contro la mafia. Anche qua, in un certo senso, è una storia di resistenza di questa ragazza a nord di Roma, a Tolfa, che si chiama Roberta, e che tenta di continuare questo antico mestiere che è quello della cowboy, l'ultima cowboy italiana. Infatti l'altro titolo è The Lone Girl, che sarebbe la ragazza solitaria o spettinata, insomma, perché lei si batte per riuscire a continuare questo antico mestiere, quello della cowboy, che era il mestiere del padre, che poi è prematuramente scomparso. Cowboy nel senso che lei fa la mandriana, cioè si occupa delle vacche maremmane, queste vacche dalle lunghe corna, tipiche del Lazio e della Maremma, che vivono allo stato brado, cioè non vivono nelle stalle come in un allevamento classico, ma sono libere in appezzamenti di terreno enormi, e quindi vanno seguite a cavallo. Quando devono mangiare, non è che vengono in stalla a mangiare, lei deve portare il fieno, mangiano insomma in libertà, quindi è come gli antichi cowboy che devono seguire a cavallo queste mandrie che si allontanano, rischiano anche l'assalto dei lupi, perché ci sono ancora dei lupi per i piccoli vitellini, quindi è un mestiere difficile, inverno a rischio delle intemperie, c'era la neve, alcuni giorni durante le riprese Tolfa era bloccata perché ha poche strade, quindi la neve impediva raggiungere, quindi lei ha tante difficoltà e poi le difficoltà economiche, perché comunque, come sappiamo, i giovani fuggono dalle campagne, fuggono dalla pastorizia, dall'agricoltura per avere un lavoro sicuro con lo stipendio mensile. Invece lei vuole continuare ostinatamente questo lavoro anche con le difficoltà economiche che ha. È il suo sogno, insomma, di vivere in questa natura incontaminata, perché è anche un film sull'ambiente che oggi è tanto importante e finalmente, no, abbiamo questo nuovo ministero che ci sarà con il nuovo governo, quindi è anche importante l'ambiente, perché sicuramente è un inno anche a una vita diversa, una vita lontana dal cemento, lontana dai rumori, dalle fabbriche, dall'inquinamento, perché lei vive proprio in queste campagne completamente incontaminate, fra colline e cieli, uccelli selvaggi. Insomma, anche noi durante le riprese, che sono durate tagliate su più mesi, abbiamo vissuto e ci siamo immersi in questa natura che neanche forse ci rendevamo conto che fosse così vicina a Roma, no? A un'ora da Roma. Invece ancora l'Italia, insomma il mondo, offre tanta natura che è solamente a pochi chilometri da noi. E lei quindi si batte per continuare questo mestiere difficile anche contro la madre stessa che la spinge, cerca di convincerla a fare un mestiere normale, no? A fare la bidella. E di nascosto a lei, ad esempio, la iscrive alle graduatorie per fare la bidella a Civitavecchia. Questa è una delle scene, insomma, tragicomiche, perché per lei chiaramente è una notizia molto brutta, di Roberta, che la madre l'abbia iscritta alle liste per fare la bidella. Chiaramente lei vuole continuare anche con tutte le difficoltà a fare questo mestiere. E poi bisogna dire che Roberta ha un approccio anche forse diverso, femminile, con gli animali. Per esempio ci sono delle vacche più anziane che non fanno più vitelli, e quindi normalmente un altro allevatore le avrebbe mandate al macello perché non rendono più. E invece lei le tiene ancora, perché dice: questi hanno fatto il loro dovere, hanno vissuto tanti anni al servizio nostro, perché dobbiamo mandarle via adesso? Invece teniamole come se vanno in pensione. Quindi è un approccio forse da madre, un approccio femminile diverso che ha rispetto agli allevatori normali. E devo dire che questo mondo campagnolo della pastorizia, oggi dove sempre di più c'è il biologico, insomma il chilometro zero, potrebbe essere anche economicamente, socialmente qualcosa di interessante, nel senso che tante persone che sono venute in città, vivono magari in periferia con un lavoro difficile, mal pagati magari, capito? Invece tornare a coltivare in maniera consapevole, in maniera anche scientifica, le campagne, un'agricoltura biologica, eccetera, potrebbe essere anche qualcosa di economicamente rilevante e non solo un sogno romantico, insomma. Quindi questo ritorno alla campagna di Roberta può anche rappresentare una via interessante economicamente. Poi un'altra cosa interessante è che dopo questi mesi di riprese, tornando a Roma dove abito, camminando per la città, mi sono accorto di qualcosa a cui noi non facciamo più caso, cioè che il suolo nelle città è completamente violentato, rivestito dall'asfalto, con pochi spazi per gli alberi. Questa è una cosa che sembra stupida, no? Sembra banale. Invece io l'ho notata dopo essere stato tanto a camminare sulla terra, sulle colline, sull'erba, e a vedere invece questa terra delle nostre città che non esiste più ed è nascosta, rivestita completamente dal cemento e dall'asfalto, che non ci appartiene, sicuramente non è qualcosa di umano. Quindi anche col Covid, forse col lockdown, molti sono tornati alla campagna, insomma, quindi questa tendenza forse sta tornando ed è un bene sicuramente. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? La pagina web della nostra società, www.eurofilm.tv, c'è anche Instagram, sempre di Eurofilm, e poi colgo l'occasione per ringraziare la produttrice, nonché mia sorella Simonetta Menta, e il co-sceneggiatore Niccolo Stazzi, con cui abbiamo pensato la storia, l'abbiamo scritta, insomma, teoricamente, perché poi un documentario si svolge filmandolo. Volevo aggiungere che il documentario era anche stato premiato al Biografilm Festival come miglior progetto italiano, poi è andato al Festival Biografilm, poi è andato a Salina, che è un bellissimo festival di documentario che difende il documentario d'autore narrativo di Giovanna Taviani, e poi al Molise Cinema, e poi doveva fare un'uscita cinema che purtroppo è stata al momento messa in stand-by a causa del lockdown e la chiusura di cinema, quindi ci ripromettiamo dopo il lockdown magari di fare qualche proiezione in qualche cinema d'essai a Roma, nelle grandi città, per vederlo comunque sul grande schermo, perché è stato girato con una fotografia di Vittorio Modezzolini, un grandissimo direttore della fotografia, come un film normale, non come